È martedì 28 gennaio, intanto i titoli per il Sole 24 Ore, Borsa Europa in rosso, alta tensione sulle banche, così apre il quotidiano, mentre per il Corriere della Sera legge elettorale nuova frenata, gli emendamenti sono circa 300 alla legge Italicum, La Stampa, riforme, l'affondo di Renzi, questo è il titolo. Renzi, avete sentito, ha detto o le riforme o si vota, tanto che il manifesto lo mette giù pesante, così Don Matteo, Renzi alza la posta e minaccia, se salta l'accordo, legislatura senza speranza. Per Repubblica, e partiremo da qui, parla Mastrapasqua, il presidente dell'INPS, resto, non sono un mostro, questo è il titolo di prima pagina. Il Messaggero invece, la vicenda Electrolux in prima pagina, taglia i salari per non chiudere. Electrolux presenta il piano stipendi dimezzati, pause ridotte per 3 impianti su 4. E anche l'Unità è su questo tema in prima pagina, Electrolux sporco ricatto, questo è il titolo. Per Libero la vicenda Scajola e Berlusconi accomunate, innocenti a loro insaputa. Libero mette con gran risalto la notizia di un ministro marocchino che dice a un documento che prova come Ruby fosse maggiorenne quando incontrò Berlusconi. E anche per il giornale Ruby inguaia i giudici. Il Fatto Quotidiano, Scajola non è reato ma la casa se la tiene. E il Secolo XIX, il ritorno di Scajola. E questi alcuni dei titoli, ma io partirei proprio dal caso Mastrapasqua, il caso che è sul tavolo di Enrico Letta dopo la vicenda che la Procura di Roma ha acceso come riflettori sul presidente dell'INPS, che è indagato in quanto direttore generale dell'ospedale israelitico per alcune presunte fatture gonfiate, dunque presunta truffa al sistema sanitario nazionale. Ebbene, il caso Mastrapasqua, scrive Davide Colombo sul Sole 24 Ore, pagina 11, il faro di Letta, Mastrapasqua in bilico. In realtà, scrive Colombo, ci vorrà ancora qualche giorno perché il premier Enrico Letta prenda decisioni sulla vicenda Mastrapasqua. Aspettiamo le analisi del Ministero del Lavoro. E però il Sole fa luce su questo mistero dei tanti multipli incarichi di Mastrapasqua. Oltre alla presidenza dell'INPS ne ricopre altre 8. È vicepresidente di Equitalia, presidente di Idea Fimit, presidente del Collegio Sindacale di Teleenergia, Med Nautilus, ADR Engineering, è sindaco effettivo di Autostrade per l'Italia, Coni Servizi e Loquendo SPA. Tutti gli altri incarichi sono stati via via cancellati, come risulta da una verifica sul sito LINCE di Cerved Group. Questa è la situazione. Dunque di misure camerali, tanto che Mastrapasqua viene intervistato da Repubblica e in prima pagina il titolo è Resto, non sono un mostro. E dice, intervistato da Roberto Mania, risponde al telefono, premette che lo fa solo per cortesia, non ha alcuna intenzione di parlare, poi però in questa conversazione con Repubblica spiega le sue ragioni. Come sto? Il mio umore dipende da voi, dice Mastrapasqua. Ma noi abbiamo pubblicato solo le accuse dei NAS. Ho letto, come ha visto, non ho reagito, non mi lamento, ho un buon carattere, forse troppo buono. Altri si dimenano, accusano, minacciano, io non ho detto una parola, non so se ho fatto bene o no, così dice Mastrapasqua. Mi dicono che la procura stia chiudendo la cosa, sono sereno. Contrariamente a come mi dipingete, sono un uomo mite e moderato. Taccio, sto fermo e aspetto. Ecco, questa è un po' la linea di Mastrapasqua, che poi dice: ma perché lei è così tranquillo? Ma beh, oddio, proprio sereno effettivamente in questo paese non è mai nessuno, ma io sì, perché sono cresciuto nella logica che se non fai nulla di male non devi temere nulla di male. E poi si viene alla questione degli incarichi. Quegli incarichi sono veri. Alla domanda di Roberto Mania, vuol dire che lei non è seduto su tutte quelle poltrone? Lei non ha tutti gli incarichi che risultano dalle visure camerali? Quegli incarichi sono veri, ma le camerali si compilano a stratificazioni e lì ci sono tutte le cariche che ho avuto negli ultimi 15 anni di lavoro. Ha capito bene? Tutte quelle che ho avuto in 15 anni di lavoro, non quelle che ho oggi. Insomma, non sanno leggere le visure camerali, ma se non sanno leggerle dovrebbero andare da un commercialista e farsi spiegare le cose. Io sono presidente dell'INPS, vicepresidente d'Equitalia per effetto di patti parasociali e di Idea Fimit sempre per patti parasociali che risalgono a prima che arrivassi all'INPS. Questo è. Questo è, ma lei è un collezionista di incarichi, chiede Mania. Quali sono i collegi sindacali di cui è presidente o membro? Questi li considera? Guardi, faccio parte di uno studio professionale e non l'ho abbandonato, a differenza di quello che fanno gli altri, anche famosi, quando assumono un incarico pubblico che intestano l'attività professionale alla moglie, io non l'ho fatto. Insomma, si difende, dice: sono presidente di 6 collegi sindacali, non di 66 o di 660, sono tutti incarichi che ho assunto dal 2004, punto. Sono ADR Engineering, Autostrade per l'Italia SPA, con i servizi Loquenda, Mediterranean, Nautilus Italy e Urtel. Ecco, tutto qui, ecco il mostro. Così Mastrapasqua si difende in lungo sfogo su Repubblica. Tra l'altro, ovviamente, questo dà lo spunto anche per tanti commenti ironici, come il buongiorno di Massimo Gramellini, oggi l'uovo di Mastrapasqua. Scrive Gramellini sulla prima della Stampa: ma è mai possibile, si lamentano da alcuni giorni i miei cari, che il dottor Mastrapasqua riesca a fare il presidente dell'INPS, vicepresidente esecutivo di Equitalia, Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud, direttore dell'ospedale israelitico, della casa di riposo ebraica, il dirigente d'Italia Previdente, EurSpa, EurTel, Eurocongressi Roma, Coni Servizi SPA, Autostrade per l'Italia, Fandango, Telecom Italia Media, consigliere d'amministrazione di Quadrifoglio, Teleenergia, Loquendo, Aquadrom, presidente onorario di Mediterranean Nautilus Italy, ADR Engineering, Consel Groma, EMSA Servizi, Telecontact Center, Immobiliare di Afimite, di chissà cos'altro ancora. Insomma, che in un'epoca di disoccupazione diffusa il dottor Mastrapasqua sia in grado di gestire da solo 25 incarichi, 25 uffici, 25 ficus da bagnare almeno 25 volte l'anno, 25 posti macchina, forse 25 macchine, di sicuro 25 chiavi d'ingresso e quindi un portachiavi immenso, un bigliettone da visita a 25 strati, decine di riunioni, cene di rappresentanza, ricevute gonfiabili, conflitti di interesse, incontri, telefonate per litigare, mettersi d'accordo, combinare affari. Mentre tu, ogni volta che in casa c'è qualche lavoretto da fare, dici sempre che non hai tempo e sei stanco morto. Ecco, questo è il buongiorno di Gramellini, anche se al numero 25 dobbiamo sostituire evidentemente la parola 10. Gli incarichi, o 9 per la precisione. Oh, l'altra vicenda giudiziaria che oggi esonda dai giornali è quella che ha visto l'assoluzione di Scajola, la famosa casa a sua insaputa, anche se lui questa frase così non l'ha mai detta. Casa al Colosseo, assolto Scajola, non è reato. Oggi non c'è giornale che non abbia un'intervista di Scajola. Proprio la trovate dappertutto. La Stampa: Berlusconi o Alfano, dipende da chi mi offre un posto in prima fila. Cioè sta già pensando a tornare a ricandidarsi. Oppure io dato in pasto al Tribunale del Popolo, così si sfoga su Libero, intervistato da Giacomo Amadori. Casa sua insaputa, assolto Scajola, e viene intervistato dal Messaggero. Pensate ieri quante interviste, poi è andato a Sky e poi è andato a Porta a Porta. Il Fatto Quotidiano: io, il brodino e la paura, niente da festeggiare, intervistato da Carlo Tecce a pagina 5. Insomma, tutta una serie così di interviste. Scajola in tutte le salse, lo potete trovare dappertutto. A proposito di Fatto Quotidiano, visto che l'ho citato, il Fatto fa oggi un'accusa molto dura nei confronti del governatore della regione Abruzzo, Gianni Chiodi. È da un po' che, partendo dallo studio delle missioni istituzionali che secondo il Fatto si sono rivelate soprattutto anche missioni di alloggi in alberghi a 5 stelle di responsabili della giunta della regione Abruzzo, beh, oggi l'accusa del Fatto è questa: la donna della 114 dorme con Chiodi e ottiene l'incarico. L'accusa di Antonio Massari sul Fatto Quotidiano, pagina 4, è questa: la notte trascorsa a Roma in compagnia di un'amica per il governatore abruzzese Chiodi rappresenta una questione politica. Il Fatto Quotidiano è in grado di rivelare che una donna ospitata dal governatore di lì a poco, attraverso la giunta regionale, ha ottenuto un importante incarico pubblico, sbaragliando la concorrenza di altre 22 candidate. E qui segue tutta la vicenda. La notte del 15 marzo 2011, lì inizia la vicenda, soggiorna Chiodi all'Albergo del Sole, paga in contanti 340 euro, con lui dorme una donna. Questa donna, dopo tutta una serie di ricostruzioni giornalistiche del Fatto Quotidiano, dopo vari mesi ottiene un incarico pubblico sbaragliando 22 candidature e ottenendo un contratto quadriennale con nomina vergata dal Ministero del Lavoro. Quella del Ministero però soltanto una ratifica che la stessa Giunta Chiodi individua tra due candidati prescelti, alla fine sceglie proprio questa signora che, scrive il Fatto, aveva passato una notte con Gianni Chiodi, una notte per la quale il governatore Abruzzo aveva omesso di dichiarare, chiedendo il rimborso in regione, di aver ospitato una persona in camera. Vabbè, sul Fatto Quotidiano questa notizia. Ripartiamo dopo la pubblicità. L'attualità politica che cosa prevede? Legge elettorale in tutte le salse. Sava Sandia. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Eccoci alle 7:35 minuti. Allora, la legge elettorale. Uno apre il Corriere della Sera nel bel mezzo della 39esima settimana decisiva per la riforma elettorale, quando sembra che tutto sia lì a un passo dalla definitiva firma. Legge elettorale, nuova frenata. No! Ma come nuova frenata? Stai a vedere che non ce la fanno neanche questa volta. Beh, comunque i dettagli sono nei 300 emendamenti più o meno presentati in Commissione Affari Costituzionali, dove è arrivato il testo dell'Italicum. Dino Martirano sul Corriere della Sera, a pagina 2, spiega: ore di incontri, mediazioni nel tentativo di stringere almeno sulla soglia al 38% per ottenere il premio. E cioè l'accordo sembrava un passo, poi in serata lo stop di Berlusconi di alzare dal 35 al 38% la soglia per la quale chi vince al primo turno ottiene il premio di maggioranza. Berlusconi sembrava d'accordo, ma poi in serata ha frenato tutti. Allora, prima il nuovo accordo sulla legge elettorale, poi l'alt di Berlusconi. Sono 318 per la precisione degli emendamenti. E attenzione, perché il Corriere lo mette come ipotesi, il Messaggero lo mette come certezza. Oggi si rivedono Renzi e Berlusconi, o si rivedrebbero Renzi e Berlusconi, per cercare di fare chiarezza su questo. Premio di maggioranza alla soglia verso il 38%, ma Silvio si infuria e frena. Così pagina 3 della Stampa, anche nel retroscena di Ugo Magri, dice: così si va al ballottaggio e i grillini votano Matteo, perché vorrebbe tenere la soglia al 35% Berlusconi, nella speranza di arrivarci lui a questa soglia e vincere. Se invece si va al ballottaggio, già il ballottaggio è una cosa che Berlusconi ha digerito, perché tradizionalmente il centrodestra al ballottaggio raramente ha vinto, e però se si alza anche la soglia per ottenere la vittoria al primo turno dal 35 al 38%, questo è un qualcosa che al centrodestra Silvio Berlusconi non piace. Ecco, il retroscena di Ugo Magri è questo: se così si alza la soglia, si va al ballottaggio, non si riesce a vincere, e al ballottaggio i grillini votano Matteo Renzi. Comunque, sta di fatto che Matteo Renzi ieri si è reso protagonista di questa accelerazione un po' brusca, a dire: o si vota questa riforma complessiva, tra cui c'è anche la riforma elettorale, oppure si va a votare, oppure questa legislatura non ha più gran senso. Tanto che il Manifesto lo definisce Don Matteo. E nel retroscena del Corriere della Sera, pagina 3, Maria Teresa Meli racconta gli amici. Il titolo del retroscena è: il segretario e il gioco al rialzo. Meglio fallire che restare fermi. Questa è la linea di Renzi. Allora, scrive il Corriere, gli amici gli avevano detto di evitare gli azzardi. I fedelissimi gli avevano suggerito di non presentarsi alla riunione dei deputati del PD alla Commissione Affari Costituzionali. E lui ha ascoltato, sorriso, è fatto come sempre di testa sua, cioè si è presentato alla riunione e dice: ora ho avuto ragione, dicevano che io non controllavo il gruppo, che è successo? Tutti mi hanno detto sì, perfino Cuperlo, niente emendamenti che rompevano le scatole. In compenso Forza Italia, che aveva accettato la soglia al 38%, ora con Berlusconi ha bloccato tutto, ma fa parte del gioco delle trattative. Insomma, Renzi è pronto a dire: bisogna alzare l'asticella, bisogna fare quello. Questo è il senso del retroscena, che da fuori dice: bisogna far di tutto, meglio fallire appunto e risultare come quello che ci ha provato, piuttosto che stare fermi. E se poi si fallisce, aggiungo io, chiameremo Goldrick. In ogni caso, il vertice oggi potrebbe esserci, dopo che ieri Matteo Renzi, scrive il Messaggero, con Marco Conti ha incontrato Verdini, potrebbe esserci il faccia a faccia ancora con Berlusconi, tanto che ieri Renzi ha fatto questa intervista proprio a Marco Conti sul Messaggero e ha messo quello che il Messaggero chiama il diritto alla pensione in cambio della legge elettorale, cioè lo scambio brutale, ma arriva, è messa così, insomma, quando Renzi ha alzato la posta dicendo se si fa la riforma anche quella elettorale la legislatura può arrivare addirittura fino al 2018. Sta di fatto che in un retroscena di Repubblica firma Francesco Bei, pagina 7, si racconta invece di un vertice tesissimo all'interno del gruppo alla Commissione Affari Costituzionali. Quello che per il Corriere è andato abbastanza bene per Renzi è un vertice teso con i bersagliani che dicono in aula sarà un inferno. Benvenuti, benvenuti all'iter della legge elettorale. Staremo a vedere. Dall'altra parte, al centrodestra, c'è un Berlusconi che gongola per cosa? Questa notizia che viene sparata in prima pagina dal giornale Libero, cioè c'è un ministro del Marocco che dice sono in possesso di un documento che dimostra che Rubi, quando incontrò Berlusconi, era maggiorenne. Eccolo lì, si riapre il caso Rubi, era maggiorenne, titola pagina 3 del giornale. E Libero fa sapere con Salvatore Dama che Berlusconi si gongola per questa notizia e ha detto ai suoi: ora voglio vedere se i giudici di Milano si ostineranno a ignorare la verità. La verità, secondo Silvio Berlusconi, è che Karima era maggiorenne all'epoca delle cene di Arcore. Parole del ministro marocchino Mohamed Mobdi, colui che firmò l'atto di nascita di Rubi nel 1992, e in questa intervista al quotidiano Al-Akhbar dice sono in possesso di questa prova. Nel centrodestra registro la prima intervista di Toti, Giovanni Toti, da direttore di TG4 Italia 1 a nuovo incarico in Forza Italia, intervistato da Paola Di Caro sul Corriere della Sera. Il partito ha bisogno di aria fresca, e poi dice sì a un governo di scopo con Renzi, e pare che sia andata bene la settimana in Beauty Farm, perché dice ho perso 4 centimetri di girovita, e quindi insomma un primo risultato è arrivato, ha perso 4 centimetri, credo corrispondano a 4 kg più o meno, no? Quindi questa è la settimana di relax e di Beauty Farm con Berlusconi. Mentre attenzione perché arrivano i primi comunicati stampa di voglio fare questo quiz a Mauro Meazza, di arriva, non ne ho idea. Arrivano i primi comunicati stampa, dunque preparati, di Francesca Pascale. Quindi i giornali fanno notare, certo, che può essere considerata first lady. First lady de che non si sa, visto che non è presidente del Consiglio Berlusconi, ma insomma è stata sdoganata con un primo comunicato stampa ieri nel giorno della giornata della memoria di Francesca Pascale. Va bene, Mauro, parliamo di questo o di altro? Che dici? Non so, sinceramente non ero preparato sul comunicato stampa della signora Pascale, neanche sulla burocrazia marocchina, devo dire, cioè, siamo una memoria di ferro però, signore, che si ricorda un atto firmato nel 92, caspita. Ce l'ha, staremo a vedere, sono cose che non ci riguardano, guarda. Buon per lui, senti, volevo dirti che è una cosa importante, parte l'obbligo di accettare pagamenti con il bancomat da parte dei professionisti, però attenzione, poi puoi pagare col bancomat, ma attenzione, cominciamo dal 28 di marzo fino al 30 di giugno, l'obbligo vale solo per quei professionisti che fatturano più di 200.000 euro l'anno, sì, quindi non sarà estesissimo. Però poi rivedranno questa cosa entro il 27 di giugno prossimo, perciò diciamo che nella seconda metà dell'anno potrebbe diventare generalizzato la possibilità di usare il bancomat, per esempio, per pagare, che so, il dentista o un altro professionista, purché la prestazione sia sopra i 30 euro. Sì. Sì. Beh, un sistema per cercare di configgere anche l'evasione fiscale. Guarda, sì, naturalmente questo è l'iniziativa, i professionisti non sono contentissimi della cosa, ma spieghiamo tutto oggi nella prima pagina di norme e tributi, dove poi puoi trovare, stessa sezione, anche un po' di indicazioni per i tuoi capitali lasciati all'estero, sì, che ti sei dimenticato di dire, di dichiarare. Distrattone, può succedere. Può succedere, e adesso puoi anche sanare, ci sono anche dei calcoli, degli esempi, insomma. C'è questa corsia preferenziale, te la spieghiamo per benino nella pagina di norme e tributi. Poi attenzione, torniamo sui nostri amici professionisti, l'OIC ha predisposto un documento sul rendiconto finanziario. So che tu fai fatichi a seguirmi, ma ti assicuro, è l'organismo italiano di contabilità, dà delle indicazioni per gestire il rendiconto finanziario delle aziende. Tu non ti scaldi su questa cosa, ti scaldi di più sulla legge elettorale, no, su queste vicende, per carità. Ma ti assicuro che invece sono cose poi che operativamente, ma io sono, mi fido molto ciecamente. Importanti. Ti stai preparando per Telefisco? Assolutamente, perché giovedì verrai anche qui. Telefisco, giovedì potrei anche essere lì, lasciamo un po' di suspense. Invece io, Mauro, nel salutarti volevo condividere con te un messaggio, perché arriva, immagino, a tutte e due, visto che al plurale, siete come sempre delle merde. Ecco, quindi non lo so, credo che Michele da Monza ha questo parere, questo piccolo editoriale. Non so che cosa abbia disturbato. Capito? Benvenuto nell'arena, caro Mauro Beazza. Tu pensi che siano solo rose e fiori e ricchi premi cotillone e elogi pubblici, e quindi volevo, insomma, così. No, ringraziamo l'ascoltatore. Sentitamente. Il parere un pochino magari tranchante. Vabbè, ma insomma, gli editoriali sono così secchi, decisi, netti, e quindi un titolo, diretto. È un titolo, sì, esatto, un titolone a nove colonne. Grazie Mauro, grazie per essere stato con noi, e noi ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, mentre si dibatte sulla legge elettorale, le famiglie italiane sono a fare i conti con situazioni sempre più difficili, come ha certificato anche ieri il supplemento al bollettino statistico della Banca d'Italia dedicato ai bilanci delle famiglie italiane del 2012. Il Sole 24 Ore, pagina 8, ma trovate su tutti i giornali questa notizia: crolla il reddito delle famiglie, meno 7,3% negli ultimi due anni. Anche per le imprese c'è un credit crunch da 98 miliardi in negativo nell'ultimo biennio. Per quel che riguarda la ricchezza familiare netta è diminuita, cioè la somma delle attività reali, immobili, aziende, oggetti di valore e finanziarie al netto delle passività finanziarie. E tutti i dati molto molto negativi per Avvenire, il titolo è questo: cresce il divario tra ricchi e poveri, perché il 10% degli italiani possiede quasi il 50% della ricchezza del paese. Questo certifica appunto questo divario tra ricchi e poveri che diminuisce. In questo contesto di difficoltà da parte delle famiglie c'è una vertenza del lavoro che ha suscitato, sta suscitando molte polemiche e conquiste anche alcune prime pagine dei giornali. La vicenda dell'Electrolux, l'azienda svedese che ha 4 impianti in Italia. Perché? Perché la proposta di tagli ai salari, tagli netti, tagli corposi, una media da 1400 a 700 euro, questa è la proposta dell'azienda per non chiudere gli stabilimenti, soprattutto lo stabilimento di Porcia in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Pordenone. Electrolux punta al taglio dei salari, non è tanto sul costo del lavoro, scrive Barbara Ganz sul Sole 24 Ore, che si gioca la partita più difficile di Electrolux. Il vero snodo è la possibile chiusura del sito di Porcia in provincia di Pordenone. Insomma, il concetto chiaro è: o accettate paghe di salari come in Polonia, oppure andiamo a produrre in Polonia. L'Unità mette a pagina 4: Electrolux, volete il lavoro, dimezzate le buste paga. Per il Manifesto è quella che è definita una proposta indecente, mentre sul Messaggero, su questo tema, il Messaggero lo mette come titolo d'apertura: salari dimezzati per salvare Electrolux. C'è un'intervista al giuslavorista Michele Tiraboschi, che dice: faccio una premessa, è difficile giudicare da notizie di stampa, in prima battuta certo sembrerebbe una provocazione, abbattere del 50% il salario di un operaio che è già basso è troppo, però una multinazionale quando cerca deve posizionarsi nel mondo e lo fa con un comportamento razionale. Se uno stabilimento in Polonia ha un costo di gran lunga inferiore a un italiano, è chiaro che la scelta razionale non può che essere la Polonia. Il caso Electrolux è un caso emblematico del caso Italia. Parliamo di un'azienda che vorrebbe andarsene dove è più conveniente, vorrebbe farlo da anni. Le altre multinazionali invece neanche prendono ormai in considerazione di venire in Italia. Non lo faranno almeno finché il costo dell'energia e quello del lavoro saranno così alti. Sulla proposta di taglio a 700 euro del salario, come la giudica? Un taglio probabilmente eccessivo per una famiglia che deve pagare un mutuo. Ci vuole uno standard minimo di sopravvivenza, ma la mediazione è il compito delle relazioni industriali. Certo, però ha fatto molto molto scalpore questi tagli shock proposti agli stipendi per mantenere la produzione qui in Italia. Vi voglio segnalare di cronaca l'articolo con tanto di editoriale di Vittorio Feltri sul Giornale, una notizia che riguarda tutti coloro che hanno figli, perché si iscrive al registro un nuovo ristorante, in questo caso a Brescia, off limits per i bambini. Sapete queste scene dove i bambini rompono le palle quando si cena, stanno andando da una parte all'altra dei tavoli, insomma questioni che conosco benissimo anch'io, ho due figli di quell'età. C'è un mondo che rifiuta gli under 10, questo è il titolo dell'inchiesta del Giornale di Simonetta Caminiti. Di un pasticcerie, ristoranti, voli aerei vietati, alberghi per i piccoli, vietati ai piccoli a tutela della quiete degli adulti, che segue dibattito con tanto di articolo di Vittorio Feltri che dice: i veri maleducati sono solo genitori, affonda ricordi dell'infanzia quando prendeva la sua famiglia, andava con la famiglia rumorosa ma sceglieva non certo luoghi chic ma trattorie alla mano dove potevano i suoi figli scorrazzare come volevano. E conclude Vittorio Feltri: non mi scandalizzo se finalmente anche in Italia si comincia a discriminare, qui cari ragazzi siete accolti e qui no. Se non ci arrivano i papà e le mamme a capire dove conviene evitare di condurre i piccini, provvedano pure i proprietari degli esercizi a segnalare se sono gradite o no le comitive familiari. Ora che sono nonno e pure bisnonno, scrive Feltri, da un paio d'anni, ditemi che non ci credete per favore, amo ancora i bambini, nel senso che li sopporto volentieri dai 2 ai 4 minuti al massimo, poi toglietemeli di torno. Così Vittorio Feltri sul Giornale. In prima pagina il dibattito sui bambini. Vi risparmio il dibattito sui segni nefasti in Vaticano. Ricordate quando Benedetto XVI si dimise? Quel giorno un fulmine colpì la cupola di San Pietro. E poi adesso il corvide che attacca la colomba, l'uccellaccio nero che attacca il simbolo della pace. Potete immaginare articoli su Libero, ma anche il Foglio fa tutta la prima pagina con un articolo che leggerò sicuramente, in realtà di Maria Rosa Mancuso, sempre preziosa nella sua scrittura, gli uccelli di Hitchcock a San Pietro, con tanto di profezie negative, uccellacci e santarellini. C'è anche un commento da Malachia alla Beata Emmerich, le nefaste profezie sul papato. Insomma, siamo anche un paese che vive di immagini e quindi c'è anche questo. Siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi stravince La Stampa, che dedica un'intera pagina con Roselina Salemi a che cosa? Alla pozione magica, bolle in una tisana, una pagina per le tisane seducenti e speziate, curano e rilassano, prima erano amare, punitive, sapevano di rimedi della donna, ora sono coccole, seduzione, piacere, lo zenzero e il cardamomo. Una pagina 19 della Stampa. Altro che tisana rilassante, come aver fatto, essermi bevuto 50 caffè di colpo con questa pagina, perché la carta costa. Andiamo al Giornale Radio.